E ben trovati e ben trovati. A inizio questa sera questo nuovo spazio dedicato alle autoproduzioni, all'attitudine do it yourself, come si dice. 21:10 qui a Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati e sintonizzati sulle 87.9 in FM. E siamo in diretta streaming su www.ondarossa.info. Questa è Do It Yourself Invasion, una nuova avventura. Che vuole essere uno spazio libero dove convergere idee ed energie. Una sorta di radio fanzine. Un appuntamento che sarà ogni giovedì, quindi dalle 21 alle 22. Quindi attraverso questi microfoni lanciamo l'invito a partecipare alla trasmissione. Quindi fatevi sentire, non delegate, partecipate. Quindi cercheremo di approfondire tutti gli aspetti legati all'autoproduzione musicale. Quindi che voi siate fonici, serigrafi, cucinieri, montatori di palchi, piccole etichette, collettivi che si sbattono, distro grafici, web radio. Quindi se avete la voglia di raccontarvi, potete farlo attraverso questa trasmissione. Ricordiamo i contatti della radio, che non campa d'aria. Quindi potete sostenere questo progetto libero partecipando alle iniziative, come avete fatto in tanti venerdì scorso all'Ex Nia, al concerto che abbiamo organizzato con i The Vile, Nofu e Razza a Parte, che ringraziamo. O sottoscrivendo, quindi attraverso il sito www.ondarossa.info, andando a cliccare su sostieni, oppure attraverso lo storico conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56, 00185, Roma, San Lollo. E gran parte della scaletta di questa trasmissione sarà realizzata, insomma, da proposte di registrazioni live che andiamo a raccogliere in giro. Quindi tempo fa si faceva con un ghetto blaster, adesso lo facciamo con qualcosa di simile, ma di dimensioni fortunatamente più ridotte. Quindi anche qui l'invito a voi, se avete registrazioni di cose recenti, ma anche di cose passate, fatevi sentire. L'email di redazione è ondarossa@ondarossa.info. La mail del sottoscritto fantasma@ondarossa.info. Iniziamo subito con un live recuperato grazie al lavoro fatto dai compagni e dalle compagne di Radio Default dei Castelli. Questa è stata realizzata allo scorso Ostiapalooza Festival, quest'anno giunto alla terza edizione. Quindi un saluto ai compagni e alle compagne di Radio Default e ZK Squat. E loro sono i Misanthropus. l'abbiamo ricordato, di inizio trasmissione, loro sono i The Vile. Ce li abbiamo avuti qui ospiti a sostegno di Radio Onda Rossa venerdì scorso in quel della SNIA. Bel concertone. Nessuno fermo, tutti a ballare. E poi insomma abbiamo preso l'occasione e ce ne siamo andati a Napoli tutti contenti per vedere di nuovo i The Vile suonare a Napoli. E ci abbiamo un collegamento, proprio uno dei fischelli che ha organizzato il concerto a Napoli. Massimo! Eccomi, ciao. Eccolo, ragazzi, ciao Dario, buonasera. Buonasera a te. Allora, insomma, no, diciamolo, il concerto a Napoli è stato fantastico, è stato qualcosa... Ti fischiamo ancora le orecchie, è stato fantastico. Sì. No, vabbè, cominciamo a descrivere un attimo la situazione, perché è un po' insolita. Sì, insomma, è la più giusta, insolita. È stata anche per noi, nel senso che abbiamo organizzato il concerto dei The Vile al Monosiglio, che è un molo a tutti gli effetti, quindi parte del demanio, della zona demaniale, quindi praticamente abusiva. Un molo militare? Un molo militare, sì, zona militare a tutti gli effetti. Diciamo, lì non ci potremmo neanche passare, in realtà lì abbiamo il coraggio, tra virgolette, di organizzare concerti, di G7 e quant'altro. Quindi poi è la sede delle nostre attività, insomma, almeno per il periodo estivo. Quindi un collettivo di punk a Napoli è andato ad occupare, ad invadere un molo militare per organizzare il concerto dei The Vile. Perfetto, sì. E in pratica, in realtà il concerto dei The Vile è anche tutti i prossimi concerti. Certo. Fino a metà ottobre, almeno come l'anno scorso, perché questo è il secondo anno di questa follia. Perché ovviamente ogni sera siamo esposti a quello che potrebbe essere una retata della Digos, o comunque semplicemente la pattuglia della polizia o polizia municipale, quant'altro. Sai che ci sono tante occasioni per essere rotti, certo. Il coglione, quindi. Però ecco, questo non ovviamente ci spaventa, perché poi fondamentalmente siamo guidati dalla passione. E quindi, insomma, siamo qua. Come avete iniziato, insomma, ad immaginare l'utopia di questa situazione? Allora, l'esigenza era, ogni anno si presentava il solito fattaccio, si salutava, noi organizziamo, siamo una decina di persone che vengono da varie situazioni, da vari collettivi, da varie, o come me, che ho una piccola agenzia DIY di organizzazione concerti, chi invece è più politicizzato, chi viene da altri collettivi. Ci siamo ritrovati, quindi ci conosciamo da anni e abbiamo sempre organizzato concerti, soprattutto in inverno, ecco, questo è il problema. Che a maggio eravamo, tra virgolette, costretti a salutarci perché i posti, i locali chiudevano, e per poi, ecco, tristemente rivedersi a settembre, ottobre inoltrato. Causa vacanze varie. Sì, perché questa c'è una cosa che ci è entrata un po' dentro, no? Mm-hmm. Ok. Ci facevamo quasi paura, cioè era normale per noi poi passare l'estate a grattarci i coglioni in piazza, oppure così a partecipare così passivamente alle altre serate che poco ci piacevano, poco ci rappresentavano. L'idea è venuta a Dario, il grandissimo Dario, uno degli elementi del collettivo, che l'anno scorso ci propone di fare concerti lì. Abbiamo degli agganci, perché a Napoli non puoi fare nulla se non sei simpatico a qualcuno, se non sei un aggancio, semplicemente se non ti sai muovere, ma penso come in tutte le città del mondo. Ma scusa un attimo, ma ti trovi sempre in zona militare, no? Forse al poligono? No, mi trovo a Torre del Greco, un'altra città di mare. Sento dei colpi. Sì, praticamente sì. Infatti ci dobbiamo lasciare, perché è finita la festa, ragazzi. Ci dobbiamo lasciare. No, in realtà, ecco, quindi praticamente a Dario è venuta l'idea, poi ovviamente è stata sposata da ognuno di noi e niente, abbiamo cominciato veramente dal basso, facendoci procurare un impianto audio, portando tutto, casse, impianti, microfoni, ognuno prendeva nelle varie serie prove quello che serviva per la serata. Anche una semplice prolunga da 10 metri serviva, perché dovevamo, tu hai visto, il mono è... copre una distanza molto lunga, quindi ci serviamo di generatori e quant'altro, quindi è nata così, proprio dal basso, cioè proprio come se fosse un concertino in un garage così. No, che poi per pochi. Poi la postazione, cioè, si presta proprio naturalmente a quello che è un palco, perché c'è questo molo lunghissimo, quindi proprio in mezzo al mare. Alla fine di questo molo c'è una piattaforma con un po' di gradini rialzata. Lì insomma si allestisce tutto il concerto con cassa e quant'altro, e lì si suona. Sì, che poi siamo illuminati in parte anche dalla luce di questo faro. Esatto, luce intermittente rossa. È perfetto, che fa da quel tocco chic a tutta la situazione precaria. E poi ovviamente, senza fare il romantico, di contorno allo sfondo abbiamo il Vesuvio, capito, il Maschio Angioino e varie altre bellezze che sì, questa città ci offre, sì, naturalmente. Sì, è una cartolina proprio. Eh sì, no. È vero, veramente è un gran bel vedere. No, niente, noi dopo insomma avervi conosciuto direttamente sul posto, abbiamo avuto proprio la volontà di farvi conoscere, far conoscere questo collettivo, questo modo di organizzare le cose. Ci siamo riconosciuti, insomma. Sì, sì, sì, ma poi insomma queste cose accadono abbastanza al volo, insomma, per chi c'ha sensibilità. Che dire, insomma, è bello insomma che tutte le cose sono auto-organizzate, le sottoscrizioni, sì, se ci sono libere, insomma. Assolutamente, sì. Anche il bar è auto-organizzato, il cibo e tutto con quanto. Prezzi popolari, ovviamente. Prezzi popolari. E parlando proprio con la gente lì intorno, cioè, è una cosa che trascende anche la musica, no? Sì, mi dispiace dirlo, ma la musica per certi versi è di contorno. Insieme al panorama anche la musica diventa un coprotagonista, perché quello che si vede è l'impegno di ognuno di noi. Esatto. Ma un impegno proprio come se fossimo dei quindicenni che approccia la prima volta a un concerto punk rock o all'organizzazione di un concerto. Proprio c'è la passione, eppure. Ma siamo tutti quindicenni, eh? Eh sì, almeno dentro. per fortuna c'è qualcuno che comunque anagraficamente è poco distante da quell'età, ne ha 20, 22. Perché siamo solo al secondo anno di Monosiglio, ma in realtà abbiamo naturalmente inglobato altre realtà, altre persone che l'anno scorso si sono affezionate, si sono avvicinate timidamente o meno, chi più o chi meno, e poi quest'anno sono entrate a pieno diritto, perché non si accede per concorso pubblico né per meritocrazia, ma semplicemente vieni alle riunioni o semplicemente vieni alla serata, ci dai una mano e sei parte della famiglia, punto e basta. Cioè, senza nonnismi, come nella tradizione di queste cose, cioè, fondamentalmente è così che funzionano queste cose, non ci sono capi, non ci sono maestri, ma semplicemente c'è soltanto la comunità di intenti, quella di voler organizzare qualcosa con passione, fatto bene, per sé, per la città e si spera per un futuro musicale diverso, perché Napoli può sembrare strano, non ha purtroppo molti spazi, o meglio, gli spazi che abbiamo attualmente sono tutti spazi che diverse realtà hanno strappato al dimenticatoio, all'indifferenza dell'amministrazione comunale. Quindi ci sono tanti, potrei citare veramente decine di realtà che sono squat, che sono realtà organizzate, autogestite. Mi viene in mente la storica officina, fino a passare all'ex ospedale psichiatrico che da poco è stato occupato da compagni, che è già pullula di attività, e questa è una cosa molto interessante, non solo musicale, in generale. C'è la mensa occupata, ci sono il 76 Ala, dove viene Dario, la stazione di Dario, che è più un posto anarchico, ma fondamentalmente noi non facciamo politica. Beh, almeno no, con questo collettivo UE Pax, sì. In realtà la facciamo comunque, esatto, perché anche questo è un modo di fare politica, ovviamente, non ci prendiamo in giro, però non ci sono bandiere. Questa è la cosa più bella e importante, anche perché non dico che abbiamo stancato, ma spaventano le bandiere, quindi è meglio parlare un linguaggio semplice, quello è del fare. E poi esatto, è chiaro che ognuno di noi ha degli interessi, delle ed è un'ideologia o semplicemente appartiene a qualcosa di più o meno forte, quindi. Però tutto questo diciamo che diventa parte di questa, di questo collettivo, di questa. Noi, a me non piace molto il termine collettivo, però non riesco a sostituirlo con un sinonimo, lo chiamiamo Way Punk, cioè un po' come wake up, cioè svegliamoci, quindi way è il nostro intercalare più comune, no? Way, way. E quindi non sappiamo come definirlo, chiamiamolo collettivo perché è molto più semplice, però ecco, non siamo anche un po' contrari a certi modi di appellare le cose, però siamo un gruppo di amici, cioè visto in attività, certo, cioè visto in azione. E no, un gruppo di amici, di amiche che stanchi insomma di delegare, sì, hanno preso iniziativa, sì, e cominciano a fare le cose, e questo è il modo più naturale, più bello insomma, di fare politica. Poi, perfetto, sì, senza che questo insomma vada a toccare delle più o meno insomma delle sovrastrutture già esistenti, però è proprio questa naturalezza insomma nel fare le cose che poi insomma tutte le persone che sono state lì, io ho avuto modo durante la serata insomma di scambiare chiacchiere anche con ti ho visto, eri molto attivo. Sì, no, sia con Pischelli e meno Pischelli insomma, che vengono anche da altre situazioni anche storiche nel panorama napoletano e non, e insomma erano commosse di stare lì e partecipare a quella e respirare quell'aria lì insomma di condivisione totale. E stiamo riuscendo all'interno a mettere insieme la vecchia generazione, lo dico con vanto, e quelle nuove, cioè alla Vigna c'è sempre la Vigna di contropotere, penso ti riferisci anche a lei, soprattutto a lei, ma ci sono anche ragazzi nuovi, veramente classe 90, persone che stanno approcciando i primi passi con i gruppi o semplicemente alla musica, quindi però lo fanno secondo me nel modo giusto, capendo che è inutile affollare i localini, i trendy, non è una crociata, però dai, è inutile andare lì a ballare o andare nei locali che ti propongono sempre la stessa salsa, cioè perde fondamentalmente tempo, cioè è un non luogo. Sempre, ripeto, non è una crociata, ma un po' lo è, perché se abbiamo creato una cosa del genere è perché eravamo stanchi di quelle situazioni che sono non solo a Napoli, ma penso quelle che vanno per la maggiore, quindi siamo stancati anche di essere stanchi di dire non c'è un cazzo da fare, certo, di prendere di affollare le piazze, perché poi a Napoli c'è la moda di affollare le piazze, ma anche in pieno inverno, a rotazione si affollano le 4-5 piazze più famose, ma senza fare un cazzo, bevendo, certo. Comunque sono atteggiamenti che non ricrimino, però cioè, l'idea è quella di dire ok, c'è un'alternativa, umilmente l'abbiamo proposta e molti la stanno recependo, questa è la cosa che di questo esperimento, passami il termine, mi piace, che non siamo neanche i ragazzini sono imbecilli, a volte quando superiamo i 30 pensiamo che le nuove generazioni siano tutti degli idioti, fatta di idioti o persone senza cervello. In realtà per fortuna ci sbagliamo, è solo il segno dell'invecchiamento, in realtà ci sono ragazzi pronti a dimostrarci che la passione si può tramandare, si può passare, o c'è semplicemente dentro ognuno di noi, al di là del dato anagrafico. Ti ho interrotto, dimmi tutto. Condivido pienamente le tue parole e il modo in cui organizzate insomma queste iniziative. Ricordiamo insomma che già a distanza, prima di conoscerci, già era nata una collaborazione con Radio Onda Rossa, perché Peppe, che è un grande tra di voi, già ci aveva fatto la locandina, abbiamo condiviso quindi prima di conoscerci già le grafiche per i due concerti, e io rilancio insomma tutte le forze che ci abbiamo per sostenervi e continuare a fare le cose insieme insomma. Sì, assolutamente, io do per scontato, nel senso che dobbiamo continuare. È stato bello condividere questi due concerti di The Wild, ma sono sicuro che collaboreremo in futuro, anche perché non siamo ancora tantissimi, quindi come si vuol dire, pochi ma buoni, quindi uniamo le forze e andiamo avanti. Perfetto. Ce la possiamo fare. Un abbraccio a te e a tutte e tutti a Napoli, a prestissimo. Porto i tuoi saluti a tutti i ragazzi. Ok, grazie. Un saluto anche a voi. Ciao. Buona serata. A te, ciao. Ciao, ciao. Vabbè, ovviamente si lascia il microfono aperto. Avevamo citato nella telefonata, neanche a farla apposta, i contropotere, ed abbiamo recuperato una registrazione del 1993 effettuata al Forte Prenestino. Loro sono i contropotere. In cui regna solo tu sola dopo un buon minuto di buco. È iniziato il concerto qui, la registrazione dei Contropotere, come ricordato in telefonata con Massimo del collettivo Wake Punk di Napoli. Abbiamo trovato lì Lavinia, appunto, dei Contropotere. Noi andiamo a ricordare un'altra iniziativa di questo sabato. Che è il Loud Summer Fest, giunto alla terza edizione. Non tutte le iniziative sono a benefit o finalizzate all'autofinanziamento, e diamo spazio a questa iniziativa. Come esempio, insomma, di controcultura musicale, tutti i gruppi sono gruppi che conosciamo qui a Radio Onda Rossa, hanno partecipato alle nostre iniziative e altre iniziative in giro. Quindi un festival hardcore punk autogestito con un botto dei gruppi: Social Trauma, Anti Digos da Bari Andria, I Galera da Roma, gli Inganna Hardcore dalla Puglia, i No Confidence da Roma, Lud Rising, La Furia, che hanno suonato anche per noi, gli Amici Assedio, gli Obophobic, i Grand Theft Age, Yes We Kill da Ferrara, poi per finire con la leggenda dell'hardcore italiano, che sono i Raw Power. E dovevamo fare un collegamento proprio con chi ha organizzato questo festival, però ahimè sarà per la prossima. Però chi ci abbiamo in linea? Chi c'è? Pronto? L'abbiamo perso. Ci sentiamo poco. Questa ha sentito la spia contro chi va in pronto? Ecco. Sì, no, vabbè, giustamente se sbaglio cursore, vabbè. Vabbè, dai, è la puntata numero zero. Io, certo, ti tengo in aiuto. Ma saranno tutte le puntate numero zero. E certo, sarà sempre così, perché comunque è il nostro, poi è il nostro mood, no? È quello di improvvisare. Però lasciati un attimo presentare. Do It Yourself Invasion, trasmissione di Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 21 alle 22. Primo collaboratore di Do It Yourself Invasion, direttamente da sotto la mole, il Mastello Nazionale. Buonasera a tutti i radioascoltatori, ma soprattutto alle radioascoltatrici, che fa sempre figo, insomma, perché è così, è ormai un mio marchio di fabbrica. E sì, così ti vengo in aiuto al posto di intervistare quei nostri cari amici tamarri che organizzano il Loud Summer Festival, tra l'altro giornata molto molto bella, a cui io invito i... Non abbiamo detto dove si svolgerà, all'Università di Tor Vergata. All'Università di Tor Vergata, così questo apre un po', diciamo, il weekend dove ci saranno tanti festival. Io ne volevo ricordare che domani ci spostiamo dal centro al nord. Domani inizieranno le 5 giornate punk hardcore do it yourself organizzate dalla Gentaglia milanese. A Milano ultimamente sembra che sia ritornato, che a splendere un po' il sole dal punto di vista, diciamo il sole nero se vogliamo chiamarlo così, dal punto di vista di comunque aggregazione di gente che si sbatte. No, beh, scusa, però cioè non è che è bello pure il sole, cioè il sole luminoso, non è che è tutto nero, cioè vabbè, però mi sono pure stancato, cioè poi alla fine ci divertiamo, cioè le emozioni. Ma lo so, alla Perù. Lo so, ma te vuoi fare il figo, però lo dobbiamo dire, insomma, che ci divertiamo, l'atmosfere sono, insomma, di... L'atmosfere sono sempre rilassanti. Dai, rilassanti, perché comunque alla fine, e quindi niente, alla fine noi ci sappiamo divertire comunque, come i ragazzi di Napoli sul molo e la loro cartolina bellissima col Vesuvio e il punk hardcore nelle casse, noi ci divertiamo sempre comunque, in ogni caso, siamo sempre così in piena forma. E quindi, come lo è ultimamente, stavo dicendo, la città di Milano, che lo scorso weekend ha ritirato fuori bello come una prigione che brucia, adesso tira fuori una 5 giornate sparse per i vari posti occupati e autogestiti della città. Domani si inizia dal T28, tra l'altro un gruppo proveniente da Aosta che si chiamano Ombra, che sono di Giampiero Milani. Sì, di Sergio. No, ho sbagliato Milani, vabbè. Non importa. Poi durante questi 5 giorni suoneranno tanti anche nostri amici come Kalashnikov, Lotta di Morte e tutto quanto. E 5 giorni che si chiuderà in quel di Via Gola sul Naviglio, dove ci sarà una disgusto e strafottenza festival, è una giornata dove suoneranno anche gli Obophobic insieme a Onoda, Lud e tantissimi altri gruppi, Essere, tantissimi altri gruppi della scena punk hardcore italiana, e io sarò lì. Quindi una 5 giorni iniziativa, insomma, con tanti bei gruppi, sarà un'iniziativa benefit? Non si sa, probabilmente sì, probabilmente no. So che comunque da un certo punto di vista i ragazzi di Milano hanno già iniziato a organizzarsi con delle... uscirà per l'occasione, per questi 5 giorni, una compilation con tutti i gruppi milanesi punk hardcore. Leggevo così oggi sulla rete che i ragazzi che organizzano, diciamo, tutta questa 5 giorni si sono coordinati tra i vari spazi per fare questa gruppi per fare questa compilation, per cui sarà disponibile in questi giorni a Milano questa compilation con tutti i gruppi milanesi. Non è sui manifesti, non è stato scritto un bene, sicuramente essendo cose organizzate nei posti occupati autogestiti, certo. Di solito, anche se non c'è scritto bene, certo. Non penso che i soldi si infilino nelle tasche di chi si sbatte dietro a questi eventi. Io sarò appunto in Via Gola, dove c'è questo bellissimo murale fatto dai Volksreiter, ovvero i writer del popolo, una crew famosa di Milano che fa pezzi molto politici, molto significativi per tutti noi, dove in mezzo, vicino a questo naviglio, ci sarà questo concerto in strada, e quindi inizieremo un po' questa collaborazione che abbiamo pensato io e te sul fatto di far girare un po' le cose, testimoniare anche attraverso le voci di chi organizza, di chi suona, di chi fa cose e vede gente. quindi inizierò questa collaborazione mandandoti un po' di file, di interviste e cose di questo genere, per dare un po' di succo a Do It Yourself Invasion. Fatelo anche voi, cioè voi radioascoltatori, esatto. Radioascoltatrici, ci trovate un po', adesso stiamo iniziando un po' a tirare fuori canali di comunicazione vari, tra mail e altri antisocial, e quindi niente, attraverso ovviamente il sito di Onda Rossa, vedremo di far evolvere questa cosa, che non sia mai sempre una puntata numero zero, però con i nostri ritmi, con la nostra passione, andare avanti verso un contenitore di più che di cose, di esperienze e di voci da dietro le quinte, ma anche da davanti ai palchi, ecco, esatto. Perché quello poi è molto importante. Quindi, insomma, non delegate, partecipate a questo progetto che fa bene a tutti e a tutte. Ecco, io niente, la mia comparsata per questa puntata numero zero l'ho fatta, me ne torno a casa così contento, comunque contento che questa cosa sia iniziata, così con questa grande grinta da parte di tutti e tutte, e niente, io mando un abbraccio a tutti voi, soprattutto a te, Fantasma, e una buona serata e una buona continuazione. Perfetto. Con sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e di Obsessed Invasion. Ci sentiamo presto, caro Mastello, perché questo abbiamo iniziato e non vi molleremo. No, continueremo a farlo. Dai, un saluto. Un abbraccione, ciao. Ciao. E noi dopo il live dei Contropotere 1993, Forte Prenestino. Passiamo in No Confidence, uno dei gruppi che sarà presenti all'Out Summer Fest a Tor Vergata. È 22.04 minuti primi, abbiamo sforato di 4 minuti. Sì. No, allora, ci sono già? Come no? Vabbè, allora innanzitutto un saluto agli apostoli, abbiate pazienza, è la puntata numero 0 da moglie, insomma, questo supplemento di tempo che mi prendo io ovviamente, quindi è tra l'altro anche incolpevole. Bene, semplicemente gli auguri a Do It Yourself Invasion, a cui giustamente non parteciperò quasi mai, ma non per una particolare avversità appunto al fantasma, al suo progetto che è fighissimo. Già oggi avete sentito il le scintille che ha fatto durante questa prima puntata, ma semplicemente perché ne basta col giusto. Io faccio mi faccio tutto da solo, sono saturo ormai, sono abituato, e il fantasma lo sa, a farmi veramente tutto da solo, da il muratore all'imbianchino, al falegname, a qualsiasi altra cosa. Quindi è bene che qualcun altro impari a fare il do it yourself, e del do it yourself un principio di vita, di esistenza, di così, una filosofia del fare, dell'essere, dello stare. Tanti auguri al do it yourself Invasion, e che sia una programmazione lunga ed eccellente e figa come quella che oggi ha dato l'Incipit. Dai, oh, ti ringrazio. Vabbè, sono commosso con la lacrimuccia. Salutaci gli apostati. Come no, come no. Dai, alla prossima. Dai, bella Pefo. Ciao. A presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. 22 e 6 minuti primi. Chiude così la prima puntata numero 0 di Do It Yourself Invasion.